È una bella iniziativa perché è paradigmatica di come dovremmo procedere in realtà nella costruzione del welfare di comunità nella nostra città. Un immobile del comune dato alle associazioni, ma soprattutto un luogo gestito dalle associazioni, assieme ovviamente con l'azienda sanitaria, e quindi rapporto con le istituzioni, cittadini che davvero fanno quella che si chiama sussidiarietà orizzontale. Hanno loro per gli utenti. È davvero un modo di procedere straordinario nel mezzo della città, in un quartiere importante come Naville. Credo che sempre di più noi dovremmo fare operazioni di questo tipo, dove sono le persone che si riappropriano dei luoghi, sono le persone che attraverso la socialità ci fanno uscire dalla solitudine. Avremo un gran bisogno di socialità dopo un anno e mezzo di forzata solitudine, forzato isolamento, e come al solito dall'area della salute mentale ci viene un importante messaggio. Così si costruisce il welfare di comunità, più istituzioni, persone che fanno progetti, le istituzioni che lasciano fare le persone questi progetti, è una rete di relazioni che diventa davvero l'antidoto, non solo alla solitudine, ma l'antidoto anche ad una società frammentata che invece noi dobbiamo ricostruire nei suoi aspetti essenziali di relazione. Anche questo infatti è un insegnamento, e io credo che questo sia un esempio che noi dobbiamo portare al di fuori della salute mentale in molte altre operazioni che stiamo conducendo proprio nella costruzione di quello che è un welfare di comunità, cioè un welfare fatto da tutti, dove tutti sono protagonisti e possono fare il pezzo che la loro competenza, la loro esperienza, la loro generosità permette loro di fare. La casa di Tina è un luogo di accoglienza che è stato voluto da 10 associazioni della salute mentale che stanno lavorando insieme come volontariato per allestirla e per organizzare delle attività soprattutto di lotta contro la solitudine. È un progetto, è il primo progetto in centro città Bologna, ce n'è già un altro a Castelmaggiore in campagna, e per gli utenti ma anche per i familiari e per gli operatori è molto importante poter lavorare assieme in un luogo bello che ha l'ospitalità di una casa e che non sia un luogo sanitario. Beh, oggi è una giornata importante, felice per noi, perché riusciamo a mettere a frutto un immobile che ci è stato dato in concessione dal comune. Noi a nostra volta, con la salute mentale guidata dal dottor Fioritti, lo mettiamo a disposizione a questa associazione di volontariato che ben 10 coalizzate tra di loro metteranno a frutto fino in fondo le capacità di questo immobile nell'accogliere componenti dell'associazione, utenti, nell'offrire dei servizi mirati, pensati, autoprogettati dalle associazioni in maniera molto interessante, innovativa e moderna, e dare un servizio in più agli utenti di quest'area della città di Bologna. Quindi un servizio in più, noi siamo felici, e siamo felici soprattutto che il volontariato, che è un'arma potentissima, che collabora con noi, si sia messa assieme varie associazioni coordinate, autogestite tra di loro nel mantenere ferma questa progettualità e ampliare la risposta agli utenti di quest'area. Facciamo una distinzione tra la cura psichiatrica e lo sviluppo della salute mentale, sono due cose diverse. Il Dipartimento di Salute Mentale cerca di garantirle entrambe, quindi abbiamo i nostri percorsi di cura attraverso gli strumenti terapeutici che sono di carattere farmacologico, psicoterapico, socioterapico e via dicendo, ma poi c'è una parte fondamentale che è quello di sviluppare il potenziale umano, di sviluppare le relazioni sociali, di sviluppare il benessere, che deve partire necessariamente anche da una iniziativa individuale che deve trovare delle opportunità. Ecco, il movimento associativo degli utenti e dei familiari si è distinto in questi 10 anni per una grande capacità di moltiplicare insieme al Dipartimento le opportunità di salute, e quindi Casa di Tina è la seconda casa che le associazioni gestiscono, la prima in città, l'altra è nel comune di Castelmaggiore, in un bel casolare di campagna, ma ecco, abbiamo già avuto la dimostrazione a Castelmaggiore che questo è un volano di salute, quindi non cura la malattia, ma sviluppa la salute.